Carmelo! Oh! Sigla! Drago! Drago! Non c'è niente, così. Ah, così tanto per... Roxanne! You don't have to put on the red light! But they thought over! You don't have to say body! Com'è che faceva Sting? Stinge. Stinge. Hai detto Stinge? Ma non è vero! Sì! Ma perché adesso che ha compiuto 60 anni è diventato Stinge? Stinge un po', capito? Daniele Torsiello scrive questa lista di 5 persone serie: Paul Connett, yeah. Non so, Stefano Rogota, ma no, Rodotà, Giovanni Favia o Favia, yeah. Poi non sono so. 3 persone, ah, no. 11 Hours Ago, ah, 4 e Like. Drago, oggi facciamo in fretta che è venerdì, quindi? No, stasera c'è una cena importante con persone serie, quindi... Ma con chi? C'è Luciano Onder, Gabriele Albertini, Gigi Marzullo, il padre di Pingu e l'Armando della Pimpa. Però, ma scusa, perché tu hai l'acqua rossa e invece ce l'ho azzurra? Perché la mia è gasata, perché io sono dei due, sono quello effervescente, Drago. Tu sei quello un po' così piatto. Pari o dispari? Ma come? Dai! Pari o dispari? Dispari. Bim, bim, boom, bam. Pari, cominci quindi... tu. Facciamo una bitonale, quelle cose mongole. Bitonale non so, però mongola. Ach du Teufel! Jedes Heim ich take in my shower, das Telefunken gehen geringing. Drago! Oh! Drago! Dove sei finito? Sono dentro il banjo! Oh, mamma mia, di nuovo! E adesso chi ti viene a tirar fuori? Devi prendere la chiavetta, quella per accordarlo. Ah, devi svitare la pelle e tirarmi fuori. Devi solo stare attento che il ponticello è mobile. Se fai casino, vabbè, poi mi si stona tutto. Devo... Vuoi anche conservare il banjo intatto? Certo, sono entrato per perfezionare la tensione della pelle e adesso tirami fuori, no? Drago! Drago! Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da K. Un saluto da Drago. Oh, che bello, Drago, oggi siamo a metà della settimana tra il Natale e il Capodanno. Sì, praticamente è una settimana Pirineo. Sì, esatto, insulsa, un po' in no, mezzo. Come insulsa? No, così, una specie di guado tra due festività. Guado, sì, guado. E quindi in queste settimane di, così, di attesa, di guado, come dici tu, bisogna sapere se preferisci stare, diciamo, dalla prima parte dell'attraversamento alla fine. Cioè, tu preferisci il Natale o il Capodanno? Adesso bisogna vedere, perché siamo il mercoledì e quindi siamo proprio in mezzo tra Natale, detto, e Capodanno, quindi però c'è chi apprezza, è proprio la metà, lo so, che se vai lì proprio nella metà potresti trovare il punto, quello, capisci, il momento esatto per cui climax è contemporaneamente Natale e Capodanno, oppure nessuno, quindi una gioia già c'è la crisi. Tutte quante le nazioni si lamentano così, conferenze, riunioni, ma si resta sempre lì. Oh, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Rinunciate all'opinione della parte del leone e chissà che la crisi finirà. Barabà, barabà, barabà, barabà, barabà, barabà. E ora, bambini, ricreazione. No, ma le sopracciglia non vanno bene, no, bisogna pelargliele. Sì, sono troppe, sì. Cosa fai? Che è stato? Stai parlando con me? Sì, tu, dai, vieni un attimo qua. Fatti vedere. Bambino Alberto, vieni qua, dai. No, vabbè, la pelle anche, la ci pelle va un trattamento. Ma sei pieno di punti neri, cos'è quella roba lì? No, ma questo è un nevo. È un nevo. Ma che nevo? Un nevo sospetto? Un neon. No, poi alla fine si è scoperto che è un punto nero. Ah, vedi? Punto sei pieno gigantesco. Dai. Vabbè, cosa mi interessa? Cioè, cosa devo fare? Dobbiamo, non mica andare sul giornale, no? Sì, invece altro che sul giornale. Magari speriamo sul giornale, perché ti abbiamo iscritto a un concorso di bellezza per bambine. Ma come per bambine? Sì, sì, beh, ci sono solo per bambini, vabbè, non abbiamo allora provato. Perché bisogna iscrivermi per forza? Sei tu l'unico che conosciamo. Vogliamo di provare a capire, è un progetto situazionista. Cioè, iscriviamo un bambino a un concorso di bellezza per bambine e vediamo come va. Ma sta situazione qua mi sembra un po' ambigua, cioè è ambigua, sì, ambigua. Però cioè, allora va bene il concorso di bellezza, di gustibus per bambini, sì, ma per bambine Sì. Non capisco. Eh beh, allora i boccoli. Anche perché poi, punta a caso, cioè avevo mio obbligo. Facciamo l'extension. Ah, ok. L'extension. Sì. Invece e poi so. Scusa, no, però scusa, robe... io ti avevo detto che cioè la devi smettere con i budinetti. Devi metterti a dieta, cioè, qui un giro facciamo... vita su. Cioè devi andare in bikini, eh. Chi in bikini? Ma adesso sì, guarda bikini, due pezzi. Pezzo sopra e pezzo sotto. Ora chiamo la direttrice, eh. Ma no, qui ci anche... sono già gli estremi, ma poi c'è anche... Ti ho detto situazionismo. Cerca di entrare un po' nella mentalità. Sai cosa vuol dire situazionismo? Ma se parli con le parole astruse. Ma un po' tu devi fidarti. Io sono un adulto, tu sei un bambino. Cioè, la coroncina. Tipo che è una roba per finta. La coroncina nei capelli anche, eh. La coroncina, tu la non coroncina devi... azzurra sì, e rosa. Sì, però Drago, tu non petali. Devi occuparti del look. Perché? Perché? Perché sei il meno indicato. Adesso non ma è vabbè, per un bambino. Allora, se proprio per un bambino, no? Ma hai visto come si mettono giuste qua? Cioè, ci va abbiamo un catalogo, da... bambino Alberto, qua di bambine che concorreranno, che è una cosa bestiale. Allora, avete il catalogo e comprate una di quelle lì, no? No, no, no, comprate, non è che sono in vendita. È situazionismo, scusa. Il catalogo dei... Ma il catalogo di, dei vestitini, indossare, è tipo un postal market, tipo di bambine Vabbè, modelle. Cosa modelle, io, quale... modelle che non è neanche modelle, perché non è che il bello non è il vestito. Sono loro. Sono loro tutte conciate. E il problema è quello, perché lo troveremo anche un bel vestito per te. Il problema sei tu. Fammi vedere le mani. Eh no, anche la manicure. Piedi. Piedi, mamma mia. E qui ci va. Mamma mia, no, una pulizia approfondita. Ho finito giocare a pallone. E pedicure, si infatti. Sente, cioè, si sente. Non devi più giocare a pallone. Perché sei una bambina. Sei una bambina ormai. No, che sei una bambina. Ora. Sì, Devi fare un numero di abilità. Da bambina... sul palcoscenico. Dai, di sto da bambina a bambina contest. Dici dai qualcosa. Allora avanti. Fai no, potresti fare dei dolci, una torta. Allora cuciniamo una torta, quella è una cosa da bambine, no? Beh, non so, fai un vassoio di cupcakes. Cupcake. Una tortina margherita non si può fare, la sai fare. Allora dai, pizza, di la ricetta. Quella è pizza, non lo so, di la ricetta, avanti. Allora è una tortina che sopra c'è il zucchero a velo e dentro è gialla. È rotonda, no? Sì, ma devi dire come la cucini, non come è fatta. Dici come la cucini, è una non torta fatta. Paradiso. Cosa? Allora, la tortina paradiso. Ah, non margherita. Allora, tortina si chiama anche margherita. No, ma tortina margherita, tortina paradiso. Ah, ma paradiso. La tortina paradiso? Ci vogliono un tot di farina. Già un della, tot. Dello zucchero a velo. Mm. Un uovo, dello zucchero. Dello zucchero. Zucchero, Cioè, non poco, cioè darci giù con lo zucchero a piacere, perché poi magari dice da per me è troppo dolce. Beh, la tortina margherita primavera. Ma come primavera? Margherita paradiso, l'hai già chiamata in tre modi, è una confusione mentale. Bambino Alberto, sei tuonato. Comunque cosa hai fatto? Come comunque? Guarda, ci vuole la poi si fa un po' di latte. Si fa un po' di latte. Deve essere, deve essere una donna incinta, insomma. C'è questo impasto, no? Questa roba che fai tipo di pastura. Sì. Ma scusa, non si sono capiti le quantità. Cioè, hai detto beh, ma le quantità è piacere. Se devo fare un tortino per due bambini e uno per una scuola intera, cambia, no? Allora, cosa vuoi che ti dica? L'unità di misura? Ma perché nelle ricette si dice sempre una torta per quattro porzioni. Per allora, persone. Vabbè, allora, un misurino di farina. Misurino di come? Quant'è? Ma quale? È una roba che c'è veterino. Quale? C'è un bidone. E cosa metti? Un bidone di zucchero? Beh, se c'è un bidone a quel punto fai la tortona per la scuola, no? Vabbè. Poi c'è un bidone di farina. Allora. Vabbè, bidone di farina. Però noi facciamo l'esempio più piccolo. Più piccolo, allora, okay. Un misurino di farina. Vabbè, sì. Un misurino nel mezzo. Sì. Tot di grammi. Pesate, vedete i grammi che volete e li mettete. No? Adesso mi sembra essere più fiscale di così, quasi stucchevole. Più bambina, ti incazzi sempre. Le bambine non si arrabbiano. Ah già, più dolce. Allora, dai. Allora prendo la pastura. Pastura. Il pasturo, quel pasturone di prima, della farina, del po' di latte, dello zucchero a velo, dell'uovo. Un uovo. È sempre uno l'uovo. Ecco, quello sapete, voi sapete, c'è l'uovo sempre, che dovete fare la torta per il reggimento o... È uno. È l'uovo. È un fisso, è come il tigreco. Dinosauro, cos'è? Il tigreco, cioè un uovo. Ok. C'è l'uovo, no? Vabbè, dai, c'è l'uovo, dai, stiamo avanti, sennò... Sì, vabbè. Comunque, allora, poi dopo... bambina, Poi dai. Dopo, e adesso quando c'è tutto questo impasto, metto un goccino di latte e con le manine... Lavate prima, Lavate bravo, con la varechina. Bravo, con la varechina e con la mucchina. Sì. Eh? Ecco. Fai il pastorone, abbiamo capito. Ma sì, abbiamo il pastore anche la mucchina. No, vabbè. Il pastorone lo metto in un contenitore. Sì. A piacere la dimensione. Sì, la forma rotonda. A piacere la forma. Anche vuoi fare. Va bene, tutto a piacere. E poi facile, no? La metti nel anche forno. Il nome della torta è a piacere, infatti, cioè margherita, paradiso, primavera. È primavera, no? La primavera. Sì. Ma la metti nel forno, sì, a piacere. La metti nel forno. Temperatura a piacere. Temperatura ambiente del forno. Ma come ambiente nel forno? 20 gradi. Ambiente del forno. Hai capito? È acceso. Ambiente del forno. Ambiente acceso. Del forno. È acceso. Quindi è acceso caldo, come d'abitudine. Di solito il forno lo tenete acceso a quanto? No, va bene quello lì. È spento, cioè usarlo. Come spento, eh? E no, accendete allora. Accendete la sera prima. Lo mettete su dove volete voi. La mattina. La casa è andata a fuoco. Questo. Cosa? No, vai. Niente. La mattina c'è il forno bello caldo. Sì. Inserisci il pastore. Il pastore, starà attento con due tenaglie di un metro, perché il forno è stato acceso. È stato acceso 14 ore. Non si può toccare, no? Appena ti avvicini. No, ma la teglia però. Quindi c'è tutto un sistema per aprire il forno senza maniglia del forno. Ah, scusa, certo. Pensavo di permettere dentro il pasturone, no? Il pastore quello... poi si getta nel forno, da distanza di sicurezza, da butti nel forno. Ok. Chiudi il forno. Sempre con la tenaglia. E aspetti quello che aspetti. Adesso cosa c'è da fare? Devo andare un attimo alla rinascente, poi devo andare lì là. Vabbè, stai via 3 ore. Torni alla tua tortina, è lì che ti aspetta. È una questione di... Sei lì, vedi un po', no? Poi dai un'occhiata, pure ti regoli. Una volta che ti sei regolato, poi dopo aspetti, quando dici, è ora. No, era 3/4 d'ora fa, fa niente. Questo è bello. No. Dopo, quando vedi che è il momento, anche, se ritardi un attimo che devi andare da qualche parte, scendi giù a prendere sigarette, allora vai. Quando decidi, ora dalla tortina, vai, apri. Ma la tortina è lì, dentro da 12 ore. E la tortina è brustolita. Questa è la schiacciatina. Il paradiso. Margherita. Torta. Inizialmente. Ma dopo tutta la procedura del forno è diventata una schiacciatina. Ah, cioè tu parti per fare una torta e esce fuori. Esce fuori un pezzo di una roba nera. Dura. Apparentemente dici, che roba strana. Invece è una torta. E che tortina. Tiri fuori. E no, questa adesso però la metto da parte. Adesso mangio 3 etti di gorgonzola. Anche oggi finita la giornata per Ineo di questa settimana, per Ineo. Vabbè, dai, è vero. E andiamo tutti a casa allegramente, aspettando il Capodanno che arriva fra qualche giorno arriva domani, il Capodanno. Quindi domani allegria. È una giornata un po' più vicina a Capodanno rispetto a Natale, quindi ci avviciniamo di più a verso cosa? Un punto B. Punto B. A cosa stai pensando? No, io sto pensando che il tempo passato sta a sinistra e il tempo futuro a destra nella nostra rappresentazione. Sì, ma grafica. Il perineo non è che c'è il tempo e il tempo, sono altre due cose, Drago. Non ti...